speriamo di risvegliarci domani con Obama presidente, è ovvio. Non è una moda, l'ho seguito sin dai suoi primi passi e vedremo. Perché? Cosa vorrebbe dire Obama presidente? Beh, insomma, non l'hanno detto in tanti e non ho la presunzione di pensare di dire cose originali, però non vi può essere dubbio che rappresenti nuovo. E tra l'altro, per quanto mi riguarda, di là di ciò che ho letto, parlando con molti commentatori americani, serie che stimo, la testimonianza che viene è data che si tratti di un politico serio e accorto, cioè non una persona che possa apparire adesso di moda sulla base di slogan più o meno vincenti, ma al contrario di una persona con profonda cultura e con le radici che conosciamo. Quindi spero che rappresenti il ritorno alla parte dell'America che amiamo. Qualche suo collega d'oltreoceano, se ha avuto modo di sentire, secondo lei quale sarà l'opinione dei suoi colleghi? No, colleghi non ho parlato con nessuno, ho parlato con moltissimi giornalisti accademici, molti professori universitari accademici, molti appartenenti con ruoli di responsabilità alle organizzazioni umanitarie. Il plebiscito è tale, totale, sono tutti per Obama. Secondo lei potrebbe cambiare qualcosa anche nei rapporti, diciamo, sui temi di giudiziari tra Italia e America con un Obama presidente? Allora, realisticamente, non sono temi che possono essere affrontati in maniera radicalmente opposta dall'oggi al domani da un presidente rispetto all'altro. Quindi non so se in specifico sul piano giudiziario su certi processi. Già annunciato la chiusura di Guantanamo. No, ma forse non con i riflessi immediati sui processi, ma credo invece che ci dovrebbero essere importanti cambiamenti sul piano della politica, anche della politica estera e anche del modo di intendere la lotta al terrorismo. Su questo non avrei dubbi.